attenzione di Ciao, ciao. Ciao, Ludo. Con il microfono che cambia la voce. No, c'è un pupazzo che fa, ma mi senti? No, un pupazzo è... Sì, è un pupazzo che mi ha regalato una persona. Si chiama Gigi Criccetto. E tu dici la roba te la ripete. Si chiama Gigi Pappagallo. Sì, ma è un criccetto. Oh, ma oh, Claudio, sto pensando ieri, è entrato Marco e ha detto, e beh, gay, non so che cosa. Io non ho risposto perché non sono gay, però da quello non è più entrato, non si era offeso. Boh, forse avevo già chiuso io, stavo andando a portare il cane. Oh, prima, è prima, come stavamo parlando noi. O Finocchi ha detto qualcosa del genere, io non ho risposto perché Finocchi non lo so, quindi non ho risposto, se no se risponde mi dice ah Finocchi sì allora. No, guarda io non l'ho sentito, forse ho parlato insieme a te, non si è capito niente, non so, o avevo già abbassato il volume perché mi pare che io mi stavo preparando per andare a portare il cane. A che ora è entrato, a che ora era, blu? Sì, ma non lo so, non ci ho fatto caso che ora era, però poi lo volevo far entrare e mi sono dimenticato di farlo entrare, vabbè. Allora, se vuole entrare, la tapiniana siamo qua, Sì, a che ora è entrato? Mi sono ancora addormito. Durante le 8 quando la gente se n'è già andata. Si arrangia, io non dico più niente. Faccia come vuole, come crede, io gli ho detto di entrare, di uscire, di svagarsi, di fare tutto quello che c'è a fare, fa modo suo, e allora ciccia. Così di la depressione, oggi bisogna svagarsi nella vita, Claudio. E come fatti? E lui non comprende, e allora io... è un ragazzino, ha quasi 50 anni, quindi vai da lui quello che vuole fare. Io ne ho 59, ma non mi do per perso. Ma io la stessa cosa, è una giovanotto e non me lo do per perso. Vivo la giornata, vivo e faccio tutto quello che posso ancora fare. Quello che non posso fare lo lascio da parte. E io sono artista, con gli amici, con la donna, ho tutto gatto, quello che mi serve. Per cui... io a me non manca niente come stessi, tutto funziona bene e sono contento così. Lui, gli altri facciano quello che devono fare, ognuno ha la sua vita giustamente e fa quello che deve fare. È diventato un tutto gatto di Gaza, la gamaretta, barica, che aveva essere omicidiare. Lo sai cosa c'è? Che la madre è depressa e deprime anche a lui, capito? Invece di essere lui a sollevare la madre, la madre sta contagiando a lui adesso. Sì, Gianni, la madre la vita sua se l'ha fatta e lui è bene si faccia la sua, secondo me, quindi non aggiungo altro. Vabbè, ma è da lui cosa vuole fare, però stando chiuso non conclude nulla. Io c'avevo mio figlio Marco che era qui, stava sempre attaccato al computer, io già non me l'ho preso, le fa, perché non te ne esci con gli amici, con le amiche, adesso ci sono le ragazzine. Beh, lo sai che mi ha dato retta, ha cominciato, esci, si è fatto la ragazza, ne ha mollato una e adesso ne ha un'altra, cioè, si sta andando da fare, dai, prima era sempre attaccato a questo cacchio di computer. Computer sì. Io da ragazzino non c'ero mai a casa, lavoravo, però quando rientravo luce cambiavo, ciao arrivederci, buon viaggio, doveva stare a casa a girare i bibili, ma non te ne ma è vita quella, no? Assolutamente, io mi sono alzato poco fa, no? È entrato alle 4:30, mi sono sdraiato nel divano, cazzo, mi gioco dove non mi dovendo anno, esce questo ancora. E nulla, mi sono seduto un po' qua, ho aperto la finestra, ho preso un po' d'aria, e ciccia. Non ho abbassato sto vento brutto che adesso carica acqua e piove. Anche mio padre ce l'ha così, quando c'è il vento attira l'acqua. No, io sono un po' nervoso, oggi non sono riuscito a riposare, perché mi è successa una cosa, ho cambiato gestore telefonico, praticamente ci avevo fatto e ho messo Vodafone perché mi conveniva col prezzo. Mi veniva 24 euro al mese, questo qui mi viene 19,90, quindi mi conveniva. Ma basta che ho cambiato tutto quanto, mi hanno collegato la Vodafone, adesso mi è arrivata la fattura della Fastweb dicendomi praticamente che devo fare 41,90 del mese di settembre, quando io a metà settembre mi avevano già collegato Vodafone, e in più c'era scritto che la prossima bolletta mi arriverà a ottobre, a fine ottobre, 31 ottobre, quando io ho dato, cioè praticamente la Vodafone ha dato la disdetta e loro, siccome me l'avevo fatto incanalare in banca, ce l'hanno ritirati subito lo stesso, capito? E io ho provato a chiamare sia uno che all'altro. Beh Claudio, credimi, il nervoso ti viene, questa voce guida che non arrivi a niente, ti dice se vuoi parlare con l'operatore clicca, prendi, clicchi due e non succede nulla, capito? L'operatore non è vero, ti mettono questa musichetta per 3 ore, sono stato 8 minuti e qualche secondo sempre aspettando che mi rispondesse. Anche io mi sono rotto le palle, ho preso, ho chiamato Fastweb, non mi fa entrare perché dice che io non sono più cliente. Ho una bolletta di lavanda, compreso. È successa la stessa cosa a me con Fiscaligiano. Io addirittura volevo anche denunciarli per truffa, l'avvocato mi ha detto legittima il contratto, nel contratto c'è scritto 3 mesi prima, se no loro si pagano i diritti, praticamente per me mi hanno preso 57 euro, mi hanno mandato 2 bollette complessive di 57 euro, capito? Una del mese successivo alla, praticamente quando io ho fatto la disdetta, io disdetta non ne ho fatto come hai fatto tu, ho agganciato l'altro operatore ha fatto tutto, invece ci vuole la disdetta per iscritto, come ho fatto a Premium, capito? Da Premium a Sky io non mi gioco, ho fatto la disdetta per iscritto, la quanta ho ricevuto il ritorno, ho aspettato che mi arrivasse ricevuto il ritorno, poi ho chiamato Sky, ho chiesto se praticamente mi agganciavano la nuova linea, perché non c'erano più i presupposti con Premium, perché non ci avevano più i diritti del calcio, e mi hanno agganciato, non mi è arrivato niente, nulla, è da giugno che io c'ho Sky e non mi è arrivato niente, perché avevo fatto la raccomandata, mentre invece Tiscali, quando ho fatto da Tiscali a 3, io ce l'ho 3 al computer, mi hanno mandato 2 bollette complessive di 57 euro, capito? E così purtroppo, perché io ci avevo la canalizzazione in banca, ci avevo il RIT e siamo i biliardi, ce l'hanno presi. La seconda volta sono andato, ho bloccato il RIT e invece ce l'avevano già presi. Adesso vado in banca e vi dico di non dare i soldi a Fastweb, perché io non ce l'ho più. Cioè io è da metà settembre, perché c'era ancora Manuela a casa, e il giorno che c'erano Manuela e Marco abbiamo messo il modem insieme, quindi perché mi ha telefonato un tecnico di Vodafone, prima mi avevano detto su Vodafone, mi avevano detto che veniva il tecnico a casa, no? Poi mi telefona il tecnico e mi dice ascolti, la linea ce l'ha, dove veramente sto aspettando il tecnico che venga, no, non può piantare lì, guardi, è facilissimo piantarla, togli una e mette l'altra, ok, però capirò 2 settimane qua, perché non mi avete avvisato prima? Non pensavo che lo sapesse, no, a me la signorina quando mi ha chiamato mi ha detto che veniva il tecnico a casa, cioè non potete dire una cosa e poi farne un'altra, comunque adesso ci provo, poi mi hanno chiamato per vedere se ero riuscito a installarlo, ho detto di sì, niente, ho detto adesso faremo 2 o 3 telefonate di controllo, non risponda perché stiamo controllando se tutto va bene, hanno controllato, buon basta, fatto io, però adesso non so se vogliono il modello indietro questi di Fastweb. No, io ce l'ho. fiscali, perché te lo danno in comodato d'uso secondo quanti anni c'eri, e io lo pagavo 5 euro al mese, mi mettevo quel modem, portavo a 50 euro mi pare, una cosa del genere, quindi una volta che te l'hai pagato il tuo, no, ma anch'io ho fatto così con tre, mi hanno chiamato, mi hanno mandato il modem con l'SDA, quando mi è arrivato il modem, mi hanno chiamato, si era tutto arrivato, mi ha detto lo attacchi, hanno staccato quello di Tiscali, staccato la spinetta, hanno fatto le prove così come hai fatto tu, e già avevo già la linea, ce l'ho già da diverso tempo, capito? Però vai in banca e blocca il RID, bloccaglielo, perché se no continuano a prendersi i soldi. Sì, sì, ma infatti così, no. Adesso il mese di ottobre loro non se lo fermano, perché il mese di ottobre io ce l'ho tutto quanto con Vodafone, quindi loro si possono prendere, vabbè, io ho fatto a metà mese, e mi ha detto un amico, mi ha detto no, si prendono tutto il mese già, non ti preoccupare, si pigliano tutto il mese, anche se tu per dire a metà mese non è più usato, per loro si prendono tutto il mese intero, capito? Perché il contratto è fatto per un mese, ogni mese paghi tanto, quindi tutto il mese se lo prendono. Poi però c'è scritto la prossima fattura arriverà il 31 ottobre, capito? Poi si prendono tutto il mese, dal primo al 31, quindi vai in banca, presto, la banca apre presto, no? Tu alle 10 poi devi rimanere a casa, ok, vai in banca alle 8 e mezza, direttamente, e le blocchi RID, ok? Come avevo fatto io. In modo che loro quando, il RID è bloccato, entrano sino i bigliani. E basta, si attaccano, perché sennò ti prendono tutto il mese intero. Guarda, è proprio una birata in giro. Lui, prima una volta avevamo fatto un cambio, quando c'era il piano a casa, avevamo fatto un cambio di telefono, mi ricordo che di te ci aveva fatto pagare per l'installazione 350 euro. Sì. Ho detto le stesse cose che hanno fatto a me, uguale. A me il cambio lo stesso del telefono quando ero nell'altra casa mi era costato un po' di meno, forse al zone, forse non lo so come funziona, un po' di meno, ma comunque mi avevano fatto pagare. Alla fine poi me lo sto fatto, avevo fatto la difesa della Telecom e non avevo più messo il telefono a casa, nulla. Qua nella casa di mio socio, quando sono arrivato io, c'era ancora il telefono, l'ho tenuto con Tiscali, poi è successo quel casino, ne ho tolto anche il telefono e non ne ho più telefono di casa io, capito? Assolutamente. C'ho la linea wifi con la 3, funziona perfettamente, c'ho 10 giga e via, e pago 5 euro al mese. Allora io ce l'ho il telefono, però non lo uso mai quello di casa, e sono delle volte che per dire non mi trovano il cellulare o che sta caricando cosa mi chiamano al telefono di casa, però io non lo uso perché questo telefono qua ce l'ho, è come se non ce l'avessi, che devo pagare lo scatto alla risposta, quindi non lo uso, uso sempre il cellulare io, solo che magari se c'è telefono in carica, che magari ti scarico del tutto, cosa che non mi trovano e mi vogliono trovare, mi chiamano al telefono in casa, capito? Sì, ho capito già, ma è un costo che non serve a niente. Non serve a niente, perché se tu guardi sono tutti diritti fissi, tutte tasse, e telefonate non viene. A me mi arrivavano in due mesi 30 euro senza usare il telefono, mi sono stufato. Mi avevano detto che la 3 faceva questo tipo di... e sono già un bel po' di anni. C'ho la linea wifi con la saponetta, no? Praticamente. C'è un numero di telefono lì dentro, è attaccata la presa telefonica e io carico 5 euro al mese. Quello lì, 5 euro al mese. E basta. Capito? E c'ho 10 giga. Mi lasci da tutti. Funziona perfettamente, ma bene però. Senza linea, senza nulla, senza rotture di scatole. Se lo voglio caricare lo carico, se non voglio caricare il computer non funziona. Punto. Senza andare con questa gente che ti piglia giù rubare un burro. No, ma a me me l'ha spiegato. Il telefono che va attaccato al modem, che va in al wifi sempre, praticamente è nel nel pacco, non è che tu paghi i costi a parte, paghi quel tanto lì, 19,90 al mese, col telefono anche fisso, solo che se tu lo usi paghi lo scatto alla risposta, appunto, quello lì c'è. Cioè tu il telefono, perché ho detto che lo volevo eliminare, ho detto no, che devo far fare, c'è questa promozione che il telefono non lo paga, se solo se lo usa paga lo scatto alla risposta, basta, appunto. Io non lo uso, Claudio, uso sempre il telefono, il cellulare, lo uso con frazzetti, uso sempre quello, per messaggi, per questo, per l'altro, sempre il cellulare, ma penso che siamo tutti così, il telefono di casa, cosa serve? Nulla serve, cosa serve? Assolutamente niente. Noi ce l'abbiamo tutte e tre, siamo tutte e tre team, e basta, così assolutamente. Io ho questo sistema e ti dico mi trovo benissimo, a volte lo carico per 4-5 mesi, per dire lo carico 20 euro, 4 mesi, capito? E mi avvisa, mi arriva un messaggio che questo sta per terminare, come il telefono, come il telefonino, ah, vado all'edicola, lo ricarico per dire di altri 20 euro per altri 4 mesi, capito? No. Come tutti i bimbi, no, due dinami l'ha furato il disco, ma un bel però, un bel, non funzionava, si bloccava, stavo sempre a chiamare, questo da qua non ce l'ho, non si è mai bloccato, mai, funziona che è una cannonata, e prima di attivare Sky, mi ho visto anche qualche partita, capito, al computer, va bene, quindi Marco non è entrato, non c'è nessuno, tutto tace, tutto morto. Io Cla, lo uso il computer, uso lo stesso, però c'ho la wifi, se no sarebbe andato con la connessione dati dal telefono e basta, non avrei avuto queste cose, solo che uso anche il computer, a volte poi adesso mi sto documentando molto sulle cavie, ci sto studiando molto i comportamenti, tutto quanto, cosa andare da mangiare, cioè ci sto studiando molto sul computer, capito? Mi sto informando molto, infatti adesso le ho comprato le copertine in paio, al posto di mettere segatura, che dicono che la segatura nel fondo a furia di respirare, riporrubinare le respiratori con le polveri che c'è, anche se questa segatura che vendono ne ha minima parte, perché viene praticamente, le polveri vengono setacciate eccetera, però ho letto che praticamente che la copertina in paio è una cosa che assorbe e che è molto pratica, perché tu la tuvi, la lavi e metti quella di ricambio, ho capito? Sono andato ai cinesi, ne ho comprato 4-5 di copertine, cosa ho speso? 20-25 euro in paio, in tutto. E ne ho comprato le copertine in paio, li metto al fondo delle copertine. E loro ci camminano sopra? Sì, ci camminano tranquilli, si coricano anche. Sembra un salotto, cazzo, sembra un salotto quando li metti le copertine, ancora però io non gliel'ho messa, le ho comprate uni. E ancora c'era una segatura da finirsi, e poi c'ho anche di quei pannolini che mettevo, quelle traversine che mettevo a Taiso quando era piccolo in terrazzo, che faceva la pipì sopra le traversine, no? Anche la cacca quando era piccolo. E me ne sono abbassate un po', adesso siccome sono assorbenti quelli lì, e le metto per qualche volta, li metto con le traversine lì, e poi ti dirà, una volta che le ho sprecate ce le butto via e via. Perché guarda che la segatura costa un bel dinamico, costano 2,80 e te ne danno un pacco da 16 litri che ti dura in due volte e tu la frangi, e io cambio, la cambiamo ogni giorno, quindi immaginati, perché non c'è né odore a casa, né nulla, è tutto pulito, non ne voglio sentire né odore, non voglio vedere mosche, nulla, e non voglio più sta pulita la gabbia profumata, addirittura l'ho preso quella profumata, la camomilla, fa un profumo allucinante. Beh, se ce li hai devi tenere bene. Siccome quelli sono grandi, li tagli in due, li rimetti nella gabbia. Li rimetti. E poi ci sono quelli bianchi, adesivi. Li avevo presi anch'io per Filippo quando era piccolo, ma non ha mai sporcato, non ha mai fatto niente dentro. Voleva sempre uscire fuori, allora l'ho portato anche da piccolino. Avevo mia adesso sabato mattina, c'è appuntamento con Filippo, portarlo a lavare e via, via Pascoli alle 10:30, 11, anche 20 di qui, quanto ci portano questi animali. Claudio, le crocchette, che se ne mangiano una scodellina al giorno, perché loro sono in quattro, quindi sono padre e madre, sono nati due figli, no? Le crocchette costano 17 euro, il pacco da 1,2 kg mi pare, sì, 1,2 kg, costa 17 euro, e infatti voglio eliminare quelle lì, perché tanto contengono carote, tutte queste cose che io li do già, e io li porto anche l'erba del prato, li porto i finocchietti selvatici, la rucola, l'erba quella normale, quella lunga che cresce dal prato. Cos'è come si lavraggia lì? Mi domani non ce li più, ne porto, ma una montagna, quando vado a portare il taglio, la tiro e te la porto fresca fresca. Se la mangiano un bel che non si dica, sono come i maiali, mangiano un bel. E poi li do lattughe, li do carote, gli do la frutta, oggi gli ho dato tutti i mandaranci, l'altro giorno gli ho dato la pera, la frutta si dà un po' meno perché contiene zuccheri. E niente, i cipriori li mangiano a gogo, lo sai da fare i cipriori, li bruciano e li fanno diventare tutti bianchi bianchi. Cioè praticamente la buccia se la mangiano tutta, mi piace un bel la buccia. Dopo che si mangiano la buccia poi si mangiano anche i cipriori. Lo so, li ho visti. Li ho visti come mangiano, ce li ha un mio amico, mi ha una coppia, lo stesso maschio e femmina, beh sono troppo curioso adesso, troppo curioso, non lo so, lo dico io lì, vabbè, K, lo giovetti di chi è. Stanchino, c'ho un po' stanchino, ma coraggio, stanchetto. Io ho visto qualche filmato su internet dove li hanno anche praticamente addomesticati e fanno gli esercizi, corrono tra il cerchio eccetera eccetera. Basta addestrare, c'è scritto anche come farli passare le paure, perché sono animali molto paurosi, essendo dei, diciamo, delle prede per gli altri animali, sono molto paurosi, quindi devi avvicinarli piano piano, toccare il musetto e piano piano si avvicina, dentro adesso si alzano in piedi e mi fischiano quando li porto da mangiare, così pratica, ma ora lo fa un bel bene, però fa proprio uguale il rumore. Già fanno qualcosa, eh? Pensavo avesse un altro tipo di rumore. Ma come dici? No, sono stato poco fa, io voglio, c'è un bel mal di testa. Questo vento mi ha ucciso, ci ho lavorato. Ma il vento, pesce, via. Vento, corrente, sotto qua, nei porticati, fanno male gli occhi. No, non mi gioco drumenti. Sono qua. Magari. Non lo so se sono partite, mira, si è messo di nuovo, sembrava che si è calmato, domani non faccio nulla, domani non faccio niente, nulla vero, mi faccio venerdì, sabato e domenica a riposo. Che vento è, recale? È un po' misto, è di beccio, un po' di grecale, ma soprattutto di beccio. Di beccio perché sta caricando acqua, e piove forte, già devo dire l'acqua che fa, piove un po' forte. Allora, prendiamola come viene, non c'è un problema, e nulla. Solo, sto dicendo, le spese che faccio sono gli animali, io a Tesla li compro, già lo sai, che quando ci metti un sacco costa 51 euro, 51. E fatto sta che solo quello, poi la carne che vi può pareggio, perché io gli do carne mattina e sera a peggio, non è che mi compro sempre le pezzi di pollo, rognone, gli do fregatine di pollo, tutte queste cose qua. E sono spese anche queste, ma se ci riesce a te, se piacciono gli animali, ci convivi tranquillamente anche se c'è delle spese. Naturalmente tutte le cose che ti piacciono ti danno delle spese, anche i dubbi ti danno delle spese, la fotografia ti danno delle spese, ma anche io ti danno delle spese. Tu vuoi di nasi, va di qua. Sì, guarda chi, boh. E tutto costa, e anche a me, come costa un sacco di soldi. Anch'io lo stesso, 51, 52, se non ricordo. Comunque il prezzo è quello. Il prezzo è quello lì. Poi ogni 15 giorni, io, 15, massimo 20, devo poter lavare. E stando a casa, il mio non posso lavare, che pesa troppo, eccetera, eccetera. Fino al porto. Un sacco di là. Le visite mediche. Vabbè, cosa ci vuoi fare? Gli animali sono animali, vanno trattati come cristiani, o meglio dei cristiani. A giugno gli ho fatto il vaccino, se mi ha fatto pagare 50 euro per il vaccino. Ho pagato sempre 35, gli ho detto non c'era il dottore dove vado io, c'era un altro ragazzo più giovane, nello stesso ambulatorio, e gli ho detto non c'è. Dice no, stasera, e allora mi hanno fatto la fila, e lo faccio lo stesso vaccino. Dice ma normale, sì sì, quello normale. E ma conviene fare anche quello per la desvaniosi, e allora ma un vinto, ma abbiamo 50 euro. Sì, non fa prezzi di meno già. Ho fatto 50 euro per il richiamo, l'ultimo. L'ultimo, io l'ultimo l'abbiamo fatto qua il mese scorso mi sembra, l'ultimo vaccino, non deve farne altri. Oggi pagato 50 euro io. Prima io vi ricordo che pagavo 35 con la visita pure, facevo la visita, visitavano le orecchie, li controllavano il naso, li controllavano le orecchie, i denti, tutte queste belle cose. Poi misuravano la febbre, avessero la febbre. Questa qui era la visita, non è che sia chissà cosa. Io 50 euro pago, io pure lo porto per fare l'analisi del sangue subito all'istante, emocromo, controlla tutto, orecchie, occhi, la febbre lo stesso, le palle, tutto le controlla. Le mette un coso nella pancia a controllare, capito? Tutto, 50 euro, compreso il vaccino, una volta parlato così. Ha tenuto 20 minuti, capito? Mi ha fatto tutto qua da tutta la fossi, via Vanna Basso, dove c'è il Conti, 50 euro, però vaccino non deve fare più, finito, basta così. Adesso speriamo che duri. E Filippo già sta andando per 7 anni, cosa pensi? Ci abbia 7 anni, infatti è molto più lento, non ha più voglia di uscire, diciamo, a correre già corre ancora, attira, però ha molta più sonnolenza rispetto agli altri anni, molta di più. Più fidati che lo sto portando alle 7:30, 8:15, a volte alle 8 la sera, la mattina non sa che ora esce, non si alza prima delle 10:30. Io scendo verso le 9, dalle 9 alle 9 e mezza, oppure dalle 9 e mezza alle 10 a volte. A volte già si alza, come si alza? È tranquillo, teso, va bene. Però quanto durano per i cani di strada? Quanti anni di vita c'è? Già, tutti i molossi sono così, non solo il mio. 8 anni, 8, 9 anni, non di più. E vabbè, te sono lo stesso, dai 9 ai 10 anni, è così, dai 9 ai 10 anni. Certo. perché siamo in salute a voi, c'è vita qualche malato, voi. No, io sto parlando di cane in salute è la vita media del molosso, è quella, 9 anni, se poi insomma è un cane magari più snello, più, ma i bulldog inglesi che sono molto pesanti, 8-9 anni, no, Filippo è ancora un atleta, grazie a Dio, però c'ha molta più stanchezza, molto più sonno, è sempre, adesso è addormentato, mi chiamava a letto con mia moglie che sta guardando la televisione, e lì, a fianco a lei, non si muove, mi tagliando, non se ne va, rimane sempre lì, capito? Oppure sta in camera di mia figlia, sempre dormito, però, dormito sul ragazzi. Vabbè, il cane è così e bisogna tenerlo così. Andrò a molla pure scudici. Guarda il televisore, sta di qui, senti tutti, mamma, un odore. No, Filippo, se li fa rumorosi l'odore non la fa, ma se li fa silenziosi, devora la maschera antigas. No, adesso il burgio non fa male, sempre silenziosi, ma se si intende dare a promuovere, ma stai in avviato, fa la nube tossica, per carità, no, lì, già sono medica, io quasi sicuramente, quando non ci voglio manco pensare, ma quando farà la buggia di lui, me ne prenderò un altro sicuramente. Proprio guarda, mi manca solo la barava, mi ha tutto questo cane. Beh, una volta che ce l'hai, disegni le cose che devi disegnare, Filippo, la stessa cosa, non lo so io, ci devo pensare, se mi trasferisco del tutto sì, allora non c'è problema, non uno, ne piglio due, la coppia, ma se rimango ancora qua non posso proprio un appartamento, no, perché c'è troppo da fare già, troppo, questa è la seconda, quindi ne ho una, due, questa è la terza della villa e l'aspirapolvere che compriamo, la terza. E ti stavo proprio dicendo quello, vedi, ne sta perdendo. Già li perde. Se la mattina la vaschetta dell'aspirapolvere, che è proprio quella sua, è quella proprio per la Videla, l'abbiamo comprata da acqua sapone, ma ti dico, c'è la vaschettina piena, non sembra, capito? Però ci sono un bel. Non ci vedo, se non guardi contro luce non ci vedo, ma io passo lo spirapolvere e poi passo anche la scopa dopo pranzo, però ce n'è sempre, poi lo spatola lui, e ne fa la spatola fettiena proprio, perché c'è il periodo che li cambiano, quindi per questo periodo dobbiamo sopportare quello che sta dentro. Certo, già, è sempre lì, c'è la muta, che non ti faceva fare la muta, Luca. È d'estate, sempre, inverno, sempre. Claudio, la fa ogni cambio di stagione, capito? Oh, yeah. Vabbè, è rosolito, rientrateci. Vabbè, maestro. Adesso non posso neanche respirare, buonasera. Ciao, Stefania. Ma è già nel caldo. Vai. Vabbè, spalletto. Ma proprio ieri stavo parlando con Antonello. Proprio ieri, ho detto, devo chiamare Stefano, ma sicuramente rientrerà a giorni, perché mi avevi detto appunto che rientrava a metà ottobre. Com'è, tutto a posto? Sì, tutto in ordine, tutto a posto. Si è rientrato definitivamente? No, domani mattina devo rientrare a Olbia, ho cose da fare, quindi mi rientro martedì, non mercoledì. Ascolta, avevi cambiato poi dopo? No, niente. Sono rimasto lì, meno male. Sì, no, sono rimasto lì e basta, per diversi motivi. No, ma lì è troppo bello, Stefano, è bello. Il caso è piccolino. carino, accogliente, va bene, e poi c'è quella, c'è quel terrazzone lì che si può pulire tutto. No. E infatti. Hai visto che ho sentito a Paolo, scusa già, ho sentito a Paolo l'altro giorno in sull'R7 Alfa, aspetta, arriva benissimo adesso, ma con cosa è linkato quello? Niente, con niente è linkato, lui arriva direttamente, anche io lo cito da Olbia, direttamente da Olbia direi, lui chiama direttamente, capito? Ma è a Itteri quel ponte così, e forse perché a Itteri è zona alta lì da Antonio, mi sembra che sia, da Jigsaw, in quella zona lì, è per quello che arriva così bene a Olbia. Sì, sì, infatti. Mi chiamano benissimo, arrivo. Tanti altri giorni stavo ascoltando, stavo parlando con Domenico, con DMN. La gente mi ha Paolo, mi... Bene, poi ne hanno linkato un altro, i miei in UHF, l'imbara, però arriva basso, a me l'imbara sempre, mi arriva a 2-3, già troppo che arriva perché c'è un giro davanti, capito? Avanti Gianni. Quindi Stefano ha terminato, andare un po' di lavoro c'era quest'estate. Già, c'era molto lavoro, molto ha richiesto molto impegno, insomma, molto da fare, diciamo. Adesso ho finito e ho da fare quello che ho tralasciato tutta l'estate, ho lasciato da fare delle cose, insomma, adesso devo dedicarmi a qui a casa, devo fare un sacco di ne ho di cosa da fare qua, mamma mia. Piano piano si va di tutto. Adesso abbiamo avere il tempo di farle, perché se no poi non è per fare, invece quando sei libero qualcosa in più la puoi fare, dai. Infatti ho detto, va, piano piano adesso ne faccio una cosa di tanto e poi basta. E il vecchio come sta, bene? Lui già è in forma, lui già sta bene. È meglio così, dai, meglio così. Dimmi una cosa, ma questo microfono è abbastanza discreto o devo mettere un altro? Oh, va benissimo, si sente anche i rumori di sottofondo, va bene. Ho capito. Sì, magari senti la ventola, che è un po'. Sto facendo un po' di sistemi digitali oggi, un po' di cose ho fatto, ma è strano. Non c'è molto propagazione qui, o meglio, non c'è molto da fare qui a Sassa. Oh, mortuio, eh. Oggi la fa. Gli fanno, Massimiliano è impegnato, se state a facendo lavori a casa, impegnato, lavoro, turri, balle e poi va giù una vitivizio, avevo pigliato la moletta, io tutto a terra, vai già. Ho già fatto questo discorso, poi ti credevo di nuovo di entrare e non puoi farlo perché non vai per il tempo. Per me non ti conviene, cioè, tanto non ti chiedono nulla a me. Sì, lo so, ma quando non fai attività Gianni, è un pericolo. Immaginati, io ho un sistema di antenne con bracci lunghi quasi 10 metri. E quando c'è il vento ci sono. Ne ho aggiunto altre due il giorno che c'era quella bellissima giornata. Altre due fasce ho aggiunto, fasce di quella cricchetto. Già, quando c'è il vento forte d'inverno io voglio dormire, capito? Voglio dormire anche perché non sono socioari, quindi le antenne non ce le ho assicurate. Cercare qualcosa giù sopra qualche macchina, ma la devo pagare io. È molto pericoloso già. Un'attività già la faccio lo stesso, l'ho sempre fatta, certo, in Europa non è che puoi girare il mondo, puoi dire ti giri il mondo. In Europa però già mi sento, non ti preoccupare. Mi sento. Però l'antenna grande, l'antenna di mente devo togliere. La tolgo. Lascio quella dei 6 metri che è piccola, bassa. E il dipolo dalla monobanda di 10 metri posso lasciare, che è piccolina, ma quella grande la tolgo, probabilmente la tolgo, quella bassa la tolgo perché è troppo pericoloso, a parte il fatto che non usandola, non facendo il gel, l'ottore, tutto si inchioda, capito? 15, 20 e 40, 21 metri, i 14, 27.000, va benissimo con l'altezza e l'avanza. Vero Stefani, cosa dici tu? Vieni a prendertela, te la stacchi? Sì, sì, canta canta e bella voce, come dicono a volte. No, c'è un altro discorso, guarda che a Cagliari verso dicembre la sezione Ari di Quarto sta organizzando un mercatino a scambio, quindi scambio per di usato di roba, di materiale radiomateriale, quindi se c'è magari qualcosa da poter dare si può andare. Io adesso vedo un po' quello che ho da portare, capito, perché ci voglio andare anch'io a vedere un po' e portare qualcosa da vendere, insomma, qualcosa che non usi oppure che vuoi disfarti o che vuoi monetizzare, vuoi realizzare, vuoi scambiare, insomma, capito? Buono, buono, buono, tienimi informato, buono. Ehi, io non lo so, chiamiamo di roba, e c'è la linea di craft che se ne rivende per l'armadio, la nuova nuova, la c'è già, se no 4-5 volte, adesso sicuramente verrà revisionata, però è quella per un appassionato di quelle linee lì, si può scambiare, c'è lo standard base 220 monobanda VHF con 275 che se ne sta rivendo. E ne ho di radio, con l'820, no, 820, 780, l'820 non lo, o 780 la Kenwood, di banda base a 220, e in aggio di così ora. Ne ho, avvisami, perché se periodo, vabbè io non ho problemi, quindi non sto lavorando. Ci andiamo, prendiamo la macchina e partiamo, facciamo come già noi siamo andati a Posada, partiamo presto, prendiamo lì, ci restiamo lì e poi ci rientriamo la sera, capito? Avvisami perché c'ho un trolley grande, io quello che portavo in fiera, del Bongo Dotto Trento, e partiamo. Ok, io ti prendo in considerazione come sempre. Quindi siccome ero a Cagliari ieri e avanti ieri, mi sono visto con delle persone e quindi mi hanno detto che dovevamo fare questa roba qui. Quindi più gente c'è e ci va, che la roba. Mi dicono che magari trovi qualcosa da fare scambio, insomma. Vieni a fare queste cose, perché in Sardegna non ce ne sono, capito? Cioè, ce ne sono. Le hanno fatte, ma no, non ha avuto mai successo. Questa volta vogliono fare le cose in modo che un po' tutti possano partecipare. Infatti c'è già l'evento, è già pubblicizzato, ma non c'è ancora la data. No, tu avvisami appena sai qualcosa, avvisami come fai sempre attualmente. Ci metto tutta la roba dentro, c'è anche dei veicolari dentro l'armadio, ne ho di roba. E poi magari lì contatto qualcuno, se a qualcuno serve da tre elementi della PKW, allora si smonta e si fa cambio un qualcosa, se no fila giudizio. Se serve a te, quando vuoi ci mettiamo d'accordo e si smonta e te la biglia. Roba nuova a te, non conviene lasciarla lì. Non conviene, assolutamente, tanto io non la uso, è stata proprio una pazzia mettere questa antenna, capito? Mi tolgo tutto, tanto ne posso approfittare anche perché adesso noi stiamo terminando con l'autoscala piccolina alle parti basse, poi c'è l'amministratore, mi stava dicendo appunto che forse, molto probabilmente, a fine mese o i primi di ottobre arriva l'autoscala grande, quella da 32 metri. E quindi non ho problemi di niente, capito? Si appoggia in alto col cestello grande, la smonto, la metto nel cestello e me la scende direttamente giù a terra, senza stare a perdere tempo. Capito? Imbragata è tutto lì, intera, e la smonto a terra nel piazzale. Quindi ci metto meno di quanto ci voglia. Perciò tu avvisami e poi andiamo come abbiamo fatto l'altra volta. Vai già. Non sai cosa, che provo a fare scambio in questi posti qua, non sembra che radio ti danno, se ti rifilano qualche radio difettosa o roba del genere, è quello il problema. Compri la scatola chiusa. La scatola chiusa, se sei lì, la provo la roba. Io se la do, la provo. Non è roba da buttare cambiano, la roba che c'ho in più, c'è una linea Alicraft, che ho aperto 400 euro usata, nuova nuova, accesa 2-3 volte, va a volare HF, con ricevitore, trasmettitore, microfono, solo un microfono in su della targa, c'è un tale più 2, tutto cromato, che è la fine del mondo, Lucio Lucio, il 252 della Turner, sono 275H della Icom, che è nuovo nuovo, solo io ce l'ho doppio, c'è l'820H della Icom, che fa la stessa cosa, c'ho il 780 della Kirmut che fa la stessa cosa, maggio di radio già, lascia aperto, tutte cose doppie, doppie, giusto per averle. Tipo figurine, capite? Alla fine a uno è una cosa, a uno è un'altra, poi ci trovo, non vuoi questo, ecco, cosa mi dai? Questo che non ho, per dire no, magari prendi un'altra radio che non hai, non è che vado lì per vendere, per mettermi soldi in tasca, ma tutti non devi dire, prendere qualcosa che non hai, ma avere tutte le cose doppie, ne ho quattro basi, UHF, quattro ne ho, una diversa dall'altra, però ne ho quattro, cosa ne fai? Ne tieni una e basta. A volte siamo noi esagerati, ma nel radio bastano due, non li hanno in fai, tanti, cosa ne fai tante cose? Due vanno bene perché se non funziona una c'è l'altra, è buonanotte. Per perlomeno i baracchini poi nel radio ci sono con le UHF, ci sono con le UHF, ci sono diverse frequenze, vabbè, quello lì hanno anche le. Ma quando uno c'ha baracchini, tanto fanno tutti la stessa cosa, cosa di notte ti alza di 5, 6, 7, 10, quando passano due. Ma infatti quello che tu dici, non serve a niente. A meno che non sei un collezionista, allora li metti lì in vetrina e ciccia, però io non sono collezionista, ma con le V e con le U ho esagerato, ma ho 4. 4, anzi, una l'avevo venduta fortunatamente, se ne avevo 5. Faccio tutti base, tutti radio ad alto livello, ma basta, tieni una e punta, io vuoi nulla, stessa cosa, ascolto e non parlo con nessuno, in HF ascolto, non parlo con nessuno, cosa, gli HF ne ho due, li tengo, va bene, però tutte le altre, però questo mercatino è buono, porto tutto lì, magari prendi qualcosa che non hai, una cazzata, una troncata, però una cosa che non hai, capito? Bene, bene, sì, benissimo. Paolo, come sta? Va bene, sì, ho sentito la voce, già era in forma. Le antenne sistemate già? No, già in forma, va. No, sono ancora giù le antenne, e lui da solo non ce la fa. Tirar su tiranti eccetera eccetera, quindi sono ancora a mezz'asta diciamo. Aspetta un attimo che mi sto mettendo il telefono, scusa. Kappa. A te sta Marcolino Condo. Oh, è Marco, è catarissimo. Ma quindi sei sicuro che era lui l'altro giorno? Sì, era lui, ha detto me Finocchi. Però non ha risposto nessuno, io non ho risposto perché sono Finocchi, quindi non ho risposto. Io ho manco accorto, ma siamo. Forse ero già. Avevo già spento, boh, è andato via. Non so, come stavo cambiando, non l'ho sentito, perché mi sono tanto per prepararmi a portare a Filippo. Non lo so già. Ma allora io, è già bugio, ma non è possibile, mi sono bugiato da luglio. Sono le 7, sono roba da matti. È tardi, eh. Fatemi fare che tiro la macchina e porto a taglio insieme, vado e mi mangio qualche cosa. Io, no, no, io ancora aspetto, se ci sto 10:30 stamattina, tanto non fa niente, aspetto, dopo le 6:30 lo porto. La giornata è finita. Sì, ma anche io a quell'ora, perché poi gli salgo quando guardare il televisore, capito? E voglio starmene tranquillo, quando mi guardo il televisore ma ne voglio stare un po' tranquillo, capito? Vabbè, questa volta c'è quel film con Marco Bucci, quello di mafia, lo sto seguendo, guardo quello. e poi basta. Tanto riposato, riposato, mi trattengo un po' la TV, tanto mi l'aria. 8:30, 9:30 d'ora. Tutta la settimana è così, fino a sabato. Se no domenica, blu. Stanno facendo le serate dovute a cosa Ciobattisti, queste cose qua, capito? Ogni tanto fanno queste serate qua. Quindi atti roba di gente. Sì, Dugnani per gente di Sulucco. Sì, i debutti, l'altro giorno c'era il debutto per i 10 anni di Alessandro Amoroso, che era pieno. Infatti era pieno. Poi aspetta domenica che c'è il derby, intermina, sono partite lì, c'è un magazzino schermo, in base a 60 bollici, è pieno di gente, stiamo lavorando un bel, sono contento, va bene, mi farà Ginefri, buonasera, stava assicitando Filippo, e si è tratta mia moglie ed una farata, adesso va bene, e poi comincia a rompere scatto. In giro, a sgranchirsi le gambe. Cosa dai biglietti dell'orme di Filippo, Dullo? Non sai, no. Io tra Basto, caro Franco, la mattina sono impegnato col condomino. Sono all'interno del comparto nostro, qua del complesso, a travagliare, a fare di tutto di più. E sto cominciando a stancarmi, eh. Infatti domani è Venari. E forse giù Guvaglio, domani fermo, sabato domenica fermo, si riprende lunedì. Ciao Fra, buonasera. Ciao, buonasera, ben ascoltato. Ciao anche Gianni, ben ascoltato. Certo, abbiamo già andato in pensione per andare a travagliare. Adesso devo venire a casa in giro. No, in giro era diverso, mi comandavano. Invece qua non mi comanda nessuno. No, un impegno l'ho preso con l'amministratore, capito? Siamo in tre, facciamo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, però stiamo mettendo a posto un sacco di cose. Siamo in un'autoscala piccola, 10 metri, e quindi facciamo tutta la parte bassa, stiamo facendo dei foggioli, cornicioni, eccetera, tutte queste cose. Poi cambiato tutte le lampadine, messo tutte le lampadine a LED, verniciato cancelli, insomma, tutte queste cosettine qua. A scalare così mia, ho visto che già c'è il tanto. Questa magia qua non è finita, ho già maturato, ho 3 ricevute, una da 100, una da 200 e una da 200, 2, 4, 500 euro. Ma vabbè. Per arrotondare va bene, mi prendi solo con 500 euro non te lo consiglio, ma arrotondare va bene. Arrotondare, mette da parte, qua c'è arrotondare non da già mi basta di sui piedi. Mette da parte e in più non pago il condomino, che sono 100 euro al mese, quindi fai il conto quanto risparmio. Va bene. Vabbè, io pago un po' meno di te, 99 euro. Ehi, nel 99% non cambia nulla. E tu Fra, com'è? Non ti stai facendo niente tu, manco campagna, niente. Nulla, campagna, non nasce campagna, è su, sono giù, però troppo lontano, non ce l'ho, non me ne frega niente. Ma tutto bella? Eia. Eia, lo so, qui dove c'è la carrozzina di tuo fratello, quella zona lì. Si è pagato. È stato a vedere le rally, pensavo la gara che c'era in salita. Ma cosa, pensavo di trovarlo, invece non l'ho visto. Non lo so, non ci vado mai, io non sono un tipo che mi piace quel tipo di sport. Non lo so, probabilmente non ha gareggiato. Vabbè, ma anche quando non gareggia lui c'è sempre. No, io ci vado, poi c'è un sacco di amici. Poi c'è la scuderia di Cosoli, capito, quelli di Alghero, che sono i nipoti di mia sorella. E quindi ci vado. No, vedete, però lui non l'ho vista. L'altra volta l'avevo vista. Sono serioso, l'avevo vista. Ah, io non c'era, nessuno se ne sale sopra il letto. Va bene, avanti già, prova a chiamare Stefano, mi si è rientrato. Ciao Franco, mi hai sentito? Avanti Stefano. non si fa ancora con fatto. E per allora, questa pensione godendo ce la stiamo. Siamo finito già, e bisogna goderla, perché se no poi, se non me la danno adesso, poi quando divento più vecchio e non ce la fai più, non puoi fare più niente. E infatti, allora bisogna andare a fare un viaggio. Un viaggio fuori, una bella crociera. Ehi, crociera. Stiamo sopra rilasciando abbastanza questa pura andatura. Ma se ne è, c'è tutta la Sardegna prima di venire. Perché se non ti muovi ti annui, in pensione uno che ha visto a lavorare alla fin fine si annuia. Lo fa a me quando sono in fili, figurati tu. Lo so, infatti sono arrivato adesso, perché alle 4 ovviamente mia moglie io a girare, andare a Sassari. Siamo andati a Sassari, siamo scesi adesso. Pertanto per girare, per cambiare, là, per non stare sempre a casa. Infatti, già perché d'inverno non ti viene molta voglia di uscire. Con questo vento poi oggi, Già, guarda, il vento è solo fuori. Quando tu vai in certi posti, a meno che non devi andare e rimanere fuori, ma poi una volta che entri nei negozi, queste cose qua, già il vento già non c'è, e ti passa anche il freddo. Poi diciamo che adesso ci stiamo facendo tutte le sagre che ci sono in Sardegna, agite organizzate, non in macchina, agite organizzate in fumo. E che siamo bene quasi tutti. Fai bene, almeno mangi formaggio buono e tutto l'altro. Cavolo, ma è vino buono pure i sabbati, io prima che era sul vino buono, ma viene pure i kiwi. Avanti qua. Ehi, ce n'è, sono andato anch'io, ce n'è. Tranquillo. Ma no, Gianni, io sto mettendo in cucetta, perché quest'anno vado a vedermi se va tutto bene, la Juventus fa la finale di Champions quest'anno, intanto la finale sicuramente è in Spagna, sicuramente o sarà Barcellona Juventus o Real Madrid Juventus, quasi pure che sia il Manchester, non lo so, comunque devo andare a finale di Coppa dei Campioni, non c'è niente da fare. E poi appena gioca Cagliari Juventus vado a vedermi Cagliari Juventus, e quindi tutto quello che mi stavo mettendo da parte quello me lo sputtano. Ma non ci vogliono tanti soldi in Spagna, già è abbastanza, la vita non è cara lì, si paga pochissimo e tutto via. Siamo andati questi amici miei con 5 euro, hanno fatto il volo con 5 euro andati e ritorno con un viaggio low cost, non ti parlo di adesso, ma ti parlo di 3 anni fa. E hanno alloggiato in questo posto che proprio risultava al centro di Barcellona. Ma hanno pagato una cantata, detto proprio, cioè cose di giuri, anche per mangiare, dice che si mangia bene e si paga poco. Io non ci vado, non ci dico contatti. Ma ormai a vedere la Coppa del Campione che costa. Costa un pacchetto di soldini, capito? Possiamo un po' una bella greffetta. E quindi mi faccio qualche giorno, non neghiando e torno. Io un po' faccio e via, l'unica cosa che posso fare. Per il resto la Sardegna gliela girata, ma girata, ma c'è un tantone mio, poi in questo periodo d'inverno è meglio non fidarsi molto, ancora in giro il tempo non è molto stabile, ma allora casinarito ha fatto, siamo qua, ci sono bellissime giornate del Campidano, passata l'acqua che sta facendo fra. E di solito il Campidano c'è sempre più caldo che qua. Questo è sentito anche, però la zona della Barbagia è tutto bello, è tutto bello, Crapponi, tutte quei paesi che sono vicino, è un paese bello lì, quella zona lì. Diciamo che quando sono andato io domenica scorsa c'era il sole e anche troppo caldo c'era. E in che paese sei andato? A Coso, a mia cugina, ma lì! Che paese era? Ordosolo. Ah, sì. È bello lì. Ma claro, l'hai vista la zona di Orosei, del Cateritano, anche quella zona lì è vista. Orosei. No, a Pula siamo andati tre giorni, 13, 14, 15, sono rientrato il 16, vabbè 16 mattina era ancora lì, ero lì a Pula, sotto Manita e Pula, volavo a San Rocco io, quindi ero lì, tutta quella costa la conosco, d'estate ero sempre anch'io a Baiacchia, sempre lì al mare, tutta la conosco già. Quella zona lì la conosco tutta, la zona di quella lì, poi a Orosei, sono stato ospite da amici a Calaliberotto lì, tutta quella zona di Nuvolo, bei posti sono, però già, la zona di Villa Cimino se non ce n'è per nessuno. Sì, ci sono stato io, sono stato in un albergo a Cagliari, siamo andati a Villa Cimino in macchina. Lo so, ci sono tutti gli ombrelloni fatti con le palme, guarda quanto è bella la spiaggia. Bella è, lì la Cimino è molto bella. No, sono andato 3 giorni a Ferragosto, ma perché mia figlia aveva solo 3 giorni, capito? E poi invece a settembre, dall'11 al 21, eravamo a Larghetto. Già mi sono venuto a segni, solo che c'ho questo impegno col condome, quindi insomma, un impegno che ho preso devo portare a termine. Adesso appena arrivo all'autoscala grande che c'è l'impresa esterna, noi ci fermiamo, poi magari facciamo qualche rifinitura, qualche cosa, però c'è l'impresa grande che deve fare facciata. Ci tengo così a zigotta, non a parte di là, tipo, non a parte di là. Per carità, quasi 5.000 euro a testa ci spetta, dobbiamo mettere. Lo so che è così, lo so che è così, e purtroppo quando fanno le facciate c'è una grossa spesa, Poi quello è un palazzo grosso, è normale che la spesa ci sia. Ma a me mi manca solo la zona del Golfo di Rosì, però la zona di Villa Cimino, Schia, quella zona lì l'ho tutta vista perché sono stato 2 settimane. Infatti quello dell'albergo ci ha detto, ma come mai vedete la parte di Sassari, ci avete Alghero, ci avete Sentino, e quella zona lì l'ho vista 1000 volte. Mi mancava questa e sono venuto qua, cazzo, come mai? Così dispiaceva che eravamo andati. Ma ci è andato a Forte Villa, ce l'abbiamo girato Tentation anche, qualcosa di Canale 5, lì l'hanno girato, vai lì vai, a Forte Villa. Quando sono andato io si pagava 120 euro al giorno a persona, 120 euro al giorno a persona. Ma non so quanto si batte, ma logare due chi soffra. Ascolta, non ci è andato a quella di Arizzo, la sagra di Arizzo, non ci sei andato? No, io a Arizzo sono stato a Pasqua e a Pasquetta, ho preso l'albergo Hotel San Bubara e sono stato Pasqua e Pasquetta un anno. Siamo andati tutti in Crepa, siamo andati al lago di Cusana, non so qui posto. Bel posto quello, bel posto. E tu Frano, mi sei andato a Arizzo? No, ancora no, il 28 dovrebbe essere questo mese a Rizzo, il 28 dovrebbe essere. Qui, caspita, Villa Cimino è una zona bellissima, io sono stato 2 volte lì, ci sono stato. A Forte Villa, già anche a Pula sono stato, è bellissimo. Caspita, tutte zone belle, veramente belle, quelle zone lì. Quindi diciamo che sto cominciando a andare in giro. Quello della Cimino su Pula l'avevo fatto tanti anni fa, l'avevo fatto. E invece adesso sono libero, libero e mi faccio anche tutti gli altri paesi. Vediamo dove arriviamo, là. Sì, ma infatti conviene. Ma conviene fare così. Conviene fare così. Io quando ero primi anni che ero sposato, mi ho fatto quasi tutta la Sicilia. Ho fatto Palermo, Catanzaro, Ragusa, Siracusa, sono andato ai templi di Agrigento, sono andato a Taormina, insomma i posti più belli della Sicilia li ho girati tutti. Sardegna diciamo che l'ho girata quando lavoravo, capito? Soprattutto quando ero a Cagliari. Cagliari a volte non rientravo, anziché rientrare il venerdì non ci rientravo, poi facevo una settimana sì, una settimana no, e saliva mia moglie. Saliva lei e ci andavamo in giro lì, ma bellissimi posti, bellissimi. E quest'anno siamo andati così, a fare 3 giorni lì. Ma belli, belli, belli. Bellissimi posti, c'è un'acqua splendida, poi lì a Forte Village c'è un'accoglienza, Gianni mio, che non ti dico, un aspetto ruvido di buoni, bellissimo come posto, molto bello, silenzioso, non c'è casino, tutto organizzato veramente bene, veramente bello. E vabbè, siamo i Gianni, ne avevamo di tempo, vai già. L'albergo l'abbiamo preso a Cagliari tutto per non pagare tantissimo, poi siamo andati e abbiamo girato in macchina, capito? In albergo andavamo solo a dormire, non lo usavamo solo per dormire, poi mangiavamo, a volte mangiavamo in un ristorante che ci capitava lì, poi ci mangiavamo la pizza, capito? Però andavamo solo esclusivamente per dormire in albergo, poi noi giravamo tutto il giorno, stavamo al mare, tornavamo sballati, la verità, però siamo stati bene, abbiamo visto dei bei posti, Chia è bellissimo lo stesso, non so se è mai stato lì a Chia. Dice così Zenne che abitavo lì io, quando lavoravo a Cagliari, alla Saras, a San Rocco, abitavo lì, capito? Abitavo lì. C'avevo la casa proprio a Santa Margherita di Pula, Pula, Chia, tutto lì è. Ma lì cosa esci? Una volta che sei dentro il villaggio cosa esci a fare? C'è la spiaggia privata che ti porta sino al mare, piscina, campi da golf, campi da tennis, di tutto e di più, già non ti annoi, no? Non ti annoi di già, cosa stai in giro? Sì, l'abbiamo visitata il paese, una bella città, Villa Simius, altro che paese, ma una vita, capito? Però non è che stavamo in giro a destra e a sinistra. E io lì ci ho fatto a Cagliari, a Santa Margherita e Pula, io ci ho fatto dal 91, nel 91 al 94, fate conto, perché nel 96 sono arrivato a Sassari, a Perfugas, nel 96 ero all'impianto di Perfugas, ma dal 91 al 94 ho lavorato lì, stiamo costruendo il depuratore della Sara, quindi fate un conto, e abitavamo lì. Eravamo in tre, abitavamo a Santa Margherita e Pula, subito dopo San Rocco, e lì c'è Chia, poi a Chia, tutto. Capito? Vai Franco, Franco. Ecco, vabbè, se gli hanno girato lui, che aspetta, la petrochimica, io mi ero lui cercato, quella San Rocco cercato la petrochimica. Allora, il... guarda, Sì, perché 91-94 alla petrochimica non sono stato molto io all'impianto lì del carbonile, sono stato 2 anni, neanche 2 anni, perché poi nel 96 sono andato all'impianto di Perfugas, quindi mi ricordo giugno del 96, era primo giugno del 96, quindi diciamo che ho fatto... quasi 2 anni ho fatto con la Zan Progetti, ti ricordi? Perché sono venuto qualche volta a te all'impianto, ma lì ho fatto male, sarei andato via molto molto prima, perché l'ingegnere della Zan Progetti mi voleva portare in Arabia, dovevo andare in Arabia, mi voleva fare il capocampo praticamente, gestire i container, no? Già non funziona, tutti i materiali, tutte le cose. Ho detto, no, non ero troppo giovane. Avevo già andarmi in voga, abbandonare la famiglia, no? Ma 8 milioni al mese erano allora. 8 milioni al mese netti, ma andate a casa, tu spesato e stavo giocando. Però i contributi erano doppi, capito? Sarei già stato in pensione da diverso tempo. Sì, ho fatto lì e poi da lì sono, c'era quel il concorso alla potabilizzazione e depurazione, l'avevo fatto e sono entrato primo giugno 96. Sono entrato dove me ne sono andato praticamente, capito? E fra Girado, Naggio, Girado. E nel 76 praticamente poi ho scoperto che nel 76, quando io sono entrato lì, sono entrato in quella cooperativa a Quattro Muri, praticamente Ghiscia Gherabui si è convertita nella garofana, Ghiscia di Facchinaggio che viene fatto in di Du, dove lavoravi tu praticamente, di quel posto lì dove saccavano. Zicca mi sembra che era quella carovana lì, la prima entrata, confermi. Zicca era il proprietario, esatto, a Zicca si chiamava Cooperativa Quattro Muri, e poi si è convertita chissà in la Garovana, dove poi c'erano tutti i bortoborresi praticamente, sì, quella lì, nel 76 è nata quella, a Zicca Rovabo, poi è entrato il figlio, la Garovana l'ha fatta praticamente in Rivera Rugnoso, in Rivera di tutti i saienti, capite? Quello era il figlio, e lui sono entrato col padre nel 1976, e vi scritto. Alla moglie il microfono, eh! No, già è così, infatti mi ricordavo la zicca, mi ricordavo. No, io, guarda, quando... non so se tu l'hai conosciuta, ma l'hai conosciuta Bertuzza, l'hai conosciuta tu. Benassi, io ero con Benassi prima di entrare lì, ero con Benassi. E quella lì lo stesso aveva chiuso qua, aveva finito i lavori. Mi senti qua? No, sì. R7 Alfa siamo. Quando ha finito? Ah? R7 Alfa. E so sempre chi si conta. No, non ci parlo io. Erano un mese, andai da. Io non ci sono andato, ho preferito rimanere qua. Mio fratello invece che lavorava con me, lo stesso. Io, Domenico e Paoletto. Invece io no. E già di sé. Sono rimasto qua. E forse avevo fatto un po' gridinato, l'avevo fatto. Dopo rentro qua. Invece c'è per coperto. Ehi. Sono rimasto. Vabbè. E hanno dato tutto bene. Avanti, ciao. Continuate, continuate che sta accettando un attimo. Ehi. Ehi, già. Sì, che c'è anche il tempo. Poi lo rilanciamo. Sì, ma allora con Benassi ho lavorato anche io, però con Benassi chi? La parte edile o la parte meccanica? Perché ho lavorato con Benassi nella parte edile, però ero ragazzino, avevo da poco la patente, quindi forse avevo 19 anni, ma appena finito il militare forse. Ed eravamo a Santa Teresa, la Marmorata, che stava costruendo l'albergo, quello stai dicendo tu, che faceva la parte edile, la parte edile lì a Sadomo, praticamente dentro Linica. Nell'80.000 eravamo noi, dentro Linica, nell'80.000. Allora, io lavoravo con Giome Trapponeso, Giome Trapponeso era quello che prendeva le misure degli scavi. E io ero con Geometra di Ida, e allora la stessa impresa, perché c'è Geometra Fornese e Geometra di Ida. Sì, basamenti facevate voi dei serbatoi. Sì. C'è quello lì, che poi si chiamava, Benassi era proprietario, la società era SCI SRL, Società Costruzioni Immobiliari. Sì, esatto. Però noi chiamiamo sempre Benassi perché era il nome più che ci veniva facile. Quello è un dio, quello è quello che ha fatto l'Alghero Bosa, la Buddi Buddi, quello era il socio di Allagio. Allagio e Benassi sono stati presidenti della Torres quando noi eravamo ragazzini. Figurati. Io diciamo ho lavorato lì, poi da lì se n'è andata, è arrivata Magistretti, non so se è conosciuta quella lì, che aveva il cantiere fuori dell'Enichem, aveva verso la strada all'incrocio due mari, Sentino Alghero. Sì, era Marinella, noi lo chiamavamo Mentivi. Esatto, la Marinella, esatto. E c'è il bar lì, c'è tuttora. Esatto, non c'è il bar. Non c'è il bar, quello è il parente di mamma. Quello è il parente di mamma, Falchi. Ecco. Lì, io ho lavorato anche lì. Io, poi, anche altri amici miei che lavoravano in cooperativa con me, lo stesso, e abbiamo tutto lavorato lì. Poi quella magistratura è durata poco, è durata, perché uno non so perché, non è che pagava, era all'esilio di Arraderra, era, proprio a Borghi di Nagis. Sì. Sì, 19 anni avevo io, 19 anni, sì, costruzione immobiliare. Avevo un ufficio a Sassari, in via Torres 21, sì, il capicantiere era il geometra Leda e il geometra Funesio, lo ricordo perfettamente. Non riuscivo a capire questa cooperativa a quattro muri qual era nel 76, perché il ragazzino mi ha detto mamma, infatti, mi ha detto Attica, che era quello Viglioro, che è ancora il figlio, mi pare che sia il consigliere comunale a Porottolo, è stato anche assessore comunale a Porottolo, in un'intrallazione, c'è sempre la ditta dentro l'Enich, non so se adesso è una cooperativa di facchinaggio o di cosa che si occupa, ma tu immagini che con... no, non è facchinaggio, è una ditta metalmeccanica, una ditta metalmeccanica di montatori meccanici, già. Perché, sai perché te lo dico? Perché la mamma di Carlo Pini, Carlo Titano, per capirci, ha lavorato con la ficca dentro l'Enich. Non li ho conosciuti, però allora Attica ha mollato la cooperativa, l'ha mollata anche il figlio, veramente non l'aveva mollata il figlio, l'aveva mollata lui il padre prima, l'aveva mollata, che l'aveva presa uno di sorso, l'aveva presa Giovannino Ruggio, l'aveva presa, poi loro si sono, il figlio si è abbinato con questo qua, però è durato poco, poi lui se n'è andato e ha lasciato tutto a questo Giovannino Ruggio, ha lasciato, in effetti, e poi è stata anni così, è stata. Poi alla fine quello lì se n'è andato, è andato in pensione, era vecchio, anche quello, e ne sono entrati altri, subentrati altri. E adesso c'è Antonio Colombo, non so se lo conosci. Io li conosco di vista, li conosco, ma poi io li ho persi. Cosa hai detto già? Ho detto, io lancio una cosa, se poi vuoi testarci, vogliamo andare a mangiarci la penne stanotte, che è una bella giornata per mangiarci la penne. Già, io non giocavo manco di bisamini alla Gadria, non so di mangiare la penne, c'ho un mal di testa, ti ho detto, mi fate adesso appena vado a portare il cane, mi prendo la pastiglia. Perché il vento, il coso, poi io sto portando gli occhiali, sicuramente però ha troppo fastidio, non vedi come ti gioco, dai ci gioco, mi gioco strumenti della cadrea, sono stanco morto già, sono volentieri al 100% qua, ma sono a pezzi oggi, Franco non penso, non si muove da giusto, chiama Marco, vai a prenderlo così lo... Se vado io a prenderlo, lo alzo al calcio nel culo. Marco dice che siamo troppo grandi, no? Così ha detto, la matta che deve varia. Così ha detto una volta, che siamo troppo grandi. E a me mi piace frequentare con quelli della mia età, che tu frequentare con Alice, perché tu mando di essi. Alice che ha ben 9, va a 59 anni, Alice. Mio vedo. Ti ricordi chi era Ruggio Gianni? Già, atto Brumido dici. Una montagna quell'uomo, fra, te lo ricordi? E chi era questo? Puggiù. Dove lavorava? Un socio di Attica. Quello grosso, quello alto, grosso. Il padre Paolo Ruggio. Diciamo, la tardia la gomma di Ruberlini in altro gassone. Sì, yeah. No, vabbè, io quelli li ho conosciuti poco, li ho visti poco, li ho visti, non mica tanto. Quell'uomo usava, allora c'è un capo di ragaz, usava il berlini di ragaz, a me me l'ha raccontato Giampaolo Recidue, non so se lo conosci, c'era il baracchino, mi ha raccontato lui che ha lavorato per anni alle cave di ragaz, mi ha raccontato, quell'uomo quando bucava, perché veniva a portare il cosio, ghiaia, cioè quando stavamo facendo il... posizionando le cose, le piantane per i plinti, insomma le piantane, tutte le cose per il carbonile, no? Per il nastro trasportato del carbone che era buono, è stato collaudato, non è mai stato attivato questo impianto, quando ero con la San Progetti. E portava, scaricava col pellino, e ha raccontato già un po' un giorno che ha bucato in cava, ha bucato la gomma, bucata, eh? Allora le gomme le rattoppava Mario Lopez al produttore, se, non so ancora se c'è, e si alzava il rugascione, mi chiamate rugascione di Berlini, la puntava da sotto, la pigliava con ripresa e se la trattiva, un'altra rugascione. Successo? È nuda io. Sì che c'è Mario Lopez ancora, c'è sempre. E che aspetta? Dal ragazzo, dalla casa del ragazzo, no, sto sbagliando io, guarda che sento che travagliamo mio fratello, no, Montalvaro guida mio fratello. No, quella è là, vabbè, la cava ragazzo è da lì, a Sonso, lui è nata la cava di Montalbano, Angelo Montalbano, non so chi c'è adesso, ma quando c'era ragazzo lavoravano tutti portoghesi, l'unica cava che c'era era quella. Era quella lì, capito? Quella mi sembra è quella di sabbia che c'era anche lì a San Lorenzo Valle, che è di Loriga, di Mario Loriga, quella lì, capito? Ma insomma, sforzarete la via, una cosa allucinante, io l'ho conosciuto. Ho conosciuto perché abitava in Viale delle Vigne, il figlio Paolo, eravamo molto amici, forse c'era la mia età, 59 anni, 58, 59, so se era il 60 o il 59, non me lo ricordo, ma insomma era una bestia, prendiamo Maduro grosso, ben fatto, era un barone 90, mi abbraccia, mia mamma si buttava. Un attimo, sto andando, dai, non ti ho risposto perché sono andato a aprire la porta che è arrivata gente, dai. Ci sentiamo, buona continuazione con SEO e buona serata a tutti, dai. Ci sentiamo anche all'ascoltunio, saluto, ciao a tutti. Ciao Gianni, alle prossime, grazie per le chiacchiere, vai fra. Ciao Gianni, ci ascoltiamo per le prossime, dai, buon proseguo, ci sentiamo. Diciamo che l'ho visto poco, l'ho visto quell'uomo lì, perché non è come che altri la giudico e la già frequentati, invece no, questo no. Però mi ammetto che sono grosso. Sì, a volte veniva, ma di solito, ti ripeto, guidava questo camion, dopo che è andato via la ragazza lo stesso, invece c'era la patente, guidava il camion, portava materiale lì quando ero dentro lì, capito? K, sì, me lo ricordo bene, anche perché lo conoscevo, che abitavo la mamma, primo periodo, poi quando mi sono sposato nell'85 viaggiavo, bei tempi, bellissimo lì a Gerez. No, a Cagliari stavo bene io, c'avevo a casa lì, da lunedì al venerdì alle 4 e mezza prendevo la macchina, alle 6 e mezza ero a Sassari, rientravo, poi ripartivo lunedì mattina verso le 5, così, alle 7 e mezza ero già a Cagliari, stavamo alle 8 e quindi avevo il tempo di prepararmi e andare a lavorare. Però c'erano settimane che decidevo di rimanere lì, periodo estivo, no? Rimanere lì, allora saliva mia moglie e facevamo il fine settimana lì, capito? Stava con me in giro, lavoravamo, quindi mi ho girata tutta quella zona lì, molto bella, molto molto bella, e di Naghi non vi erano i frati, di Naghi. io ho una scatola di divisa di botti, diviso 30, tutte le fogline paghe, perché allora erano fogline paghe, di allora qualcuna si vede ancora bene, qualcuna ti mette la lente, ma importi da paura, da paura, da paura. Immaginate quando ero a Cagliari, io, a Cagliari, la trasferta, perché mi davano anche la trasferta, a paga globale, allora si pagava uscì a paga globale, prendevo quasi 25 euro a ora. Mila lire, non 20 euro. Scusa, quasi 25.000 lire a ora. Vabbè, quando c'è la trasferta è tutto diverso. No, ma prima vedo prima c'erano messo, adesso è che adesso stanno, da quando è entrato questo scatto di euro e anche un po' prima hanno cominciato a gente a pagare di meno, a abbassare i prezzi, le paghe e tutto quanto, perché non è lo stato di abbassare i paghi, è il contratto che fa l'azienda, secondo il contratto. E tu fate il secondo contratto, che ti fate? Tu pigli il banco e vedi guadagnare all'occhio. Ehi! Ma soldi, 2 milioni e 7, 2 milioni e 8, anche 3 milioni sono arrivati, nel 91, 92, cosa avete in aghiera? Un bel soldi, un bel di soldi, falla va, ti vai un burba nuda, perché io mi incazzo e continuano a dire, sono 1.600 euro di stipendio, ho più di 3 milioni, ma cosa ci dicevi? Ma di cosa stai parlando? Ma come mette l'euro con la lira? Fai la proporzione, ho quasi 3 milioni, sono 1.600 euro, stiamo parlando di euro. Leggete ancora, i 50 euro sono le vecchie 100 mila, ma di cosa ci fa vedere? Allora gasta un pacchetto di sigarette che prima costava quanto costava? Io ho una vita che fumo, ma adesso non mi ricordo, fai che costavano 2.000 lire, allora costano 5 euro, quanto ciò, se avrà che danno? 2.500 euro costavano, 2.500 lire costavano le sigarette, le MS, le ultime, che io fumavo ancora. E poi entra 2 euro, è entrato, e sono diventate 5 euro. Ma infatti, c'è un caffè 1 euro, sono di media franchi, è un caffè, non c'è, non so io, tra le proporzioni che fanno, è tutto diverso, è tutto completamente diverso. L'ingresso dell'euro ha fatto un casino di Gesù Cristo, non è che funziona così come ti dice ieri, capisci? Perché se tu fai la proporzione cattivo uscivo con 100 mila franchi, tutta la ghita mi bastava, consumavo, perché io andavo a 7-8 al litro allora, però i soldi bastava, ti divertivi con 100 mila lì, esci con 50 euro in busciacca, la vai, a vestiti di pesci. No, esci con i debiti, se c'è un bel punto di euro, se non c'è un bel esecutito, ma se non c'è un bel esecutito, non vedrai più, non era ne mettere 100 mila franchi, la lasciamo perdere. E poi la gente non ha capito un capo, che prima avevamo la lira, se si parlava di lira, spendevamo in lira, spendevamo. Oggi prendiamo in euro, che è diverso, che è più grassa la cosa, a chi prendiamo di più che ne prendiamo una lira. Il costo della vita è molto più alto, non è come dicono loro, è completamente più alto, perché io me ne accorgo. Me ne accorgo quando vado a fare la spesa, me ne accorgo quando vado a comprarmi roba da vestire, me ne accorgo di tutto, capite? Me ne accorgo di tutto. Te ne accorgi quando sei viaggiante, no? E tu hai viaggiato come te mai. Cioè, 10 euro di benzina, non so, 5 litri di roba. Quando vuoi 10 mila di benzina, la faccio un bieno io. Infatti è così, e vabbè, è tutto diventato al doppio, ci hanno raddoppiato le spese, ci hanno raddoppiato, e vabbè, avverti, importante è che non viene di campagna. Ah, guarda, per quello, sacrifici bisogna continuare a farli, non c'è niente da fare. più avanti, se no mi rimuccio. Però il facciata di Neros è quello, i soldi, è quell'altro, adesso a noi c'è il callaio nuovo, i soldi. Ciò si può mandare di là. Ecco perché alla fine diciamo, sono ancora in grado di fare qualcosa, li recuperi qualche spicciolo, ho capito? Lo recuperi, lo metti da parte e ti aiuta a pagare queste spese extra che ci sono, se no io paghi sul ripiglio mentre te il campo e mi lavata, siamo in due, noi mi affitta a sé, mia figlia è indipendente, no? Si dorme a casa, ma diciamo che non ha più età che io. Poi come me, siamo in due, non è che ci vogliono più questi soldi qua, e poi alla fine sono i soldi che prendevo lavorando, che vivevo quando lavoravo, perché io prendevo 1.600 e aveva 1.400, niente, lucini, cioè mandava bene a chi, però la macchina si prevema, pure consumendo. E mentre prima la macchina era l'unica di consumendo e a cavallo mese che dei 200 euro ti scia. Fra, siamo uguali, ti ho detto l'altro giorno, scherzando, ci abbiamo 10 euro di differenza. Siamo uguali, anch'io prendevo 1.600 lavorando normale, poi per il estivo facevo più ore, arrivavo anche a 2.000, 1.900, 1.850 eccetera, ma mi va di un culo della Madonna, capito? Però il stipendio mio era quello, 1.600 euro, ma manco ci arrivavo, 1.580, però la bittira pulita pulita, ok? Però da quelle 1.580 cosa dovevi fare, fra? Togliere. Io viaggiavo tutti i giorni da Sassari a Sorso con la mia macchina, tutti lì, tutti lì. Poi le sigarette, il caffè con i colleghi, il rubanino, magari quando uscivamo, fermati allo scorrimento francobadesi che ci beviamo una cosa, quindi una birretta, una Coca-Cola, una lanciata, sempre di Naira, ma il costo maggiore era la macchina, perché la macchina consuma giù benzina, consuma gomme, consuma uso, ecco, quelle 200 euro io al mese ce le avevo fisse, quindi in proporzione ce le hai pulite senza far niente, va bene lo stesso, no? Che non è, attenzione, non è una pensione da buttare via, perché 1.400 euro sono buone di pensione, quindi non ci possiamo lamentare, però abbiamo lavorato di 42 anni. Come di più a te. No, non è da buttare via, no. Intanto tutti per i conti. Vivevi con questi soldi di adesso, vivevi prima, vivevi. Che c'è anche 200 euro in più, non devi contare le 1.600, non devi contare, che c'è per la macchina vale, non va più, e ti rimane l'inizio, ti rimane, e non viaggi, e a me si gola, a me mi sta bene, anzi, il lusso, mi è andato proprio di lusso. Sì, ma infatti io ho preso un'altra macchina proprio per viaggiare, adesso mi c'è una collega di mia figlia che la vuole, gliela do la 600, perché non le faccio niente. È sempre ferma, io mi sto continuando ad usare la moto per spostarmi, andare a prendermi caffè, le sigarette, a scendere al centro, eccetera, se non piove, io muovo il giubbotto e ti dice moto, ma la macchina è sempre ferma. E così evito anche quei costi semestrali dell'assicurazione, perché c'è l'assicurazione a 6 mesi in quella macchina, capito? Non mi avevo tenuta, macchina io ne avevo una e una ne voglio, non mi avevo tenuta di macchine, se no hai fatto un buco nell'acqua, capito? Quello che praticamente spendevi prima li spendi ogni 6 mesi, no, fuori da mezz'ora bene, macchina una giuro, non ne voglio di rottura di scatole, fra. Quella l'avevo presa perché ci avevo portato via le macchine in servizio e quindi sono stato costretto a comprare una macchinetta per andare a lavorare, però adesso lavoro, non me ne faccio niente. Quando ci vuole va bene, ma se non ne fai niente è meglio farla fuori, perché anche tenerla ferma ti costa, sono soldi insomma. Assicurazione, bollo, quello devi fare, il bollo devi fare ogni anno. L'assicurazione magari poi la puoi bloccare, però se te la trovano senza assicurazione fuori sei fregato. No, fatemi là dentro, no, la macchina è dentro, c'è due posti auto. Quindi non è quello il problema. Fatti di darvi manchivi e frate ghiacci, non potete adattare la roba, così me ne faccio fra. Anche perché è a posto la macchina, fatela iniziare tutta l'anno scorso. No. Faccio fuori. La macchina è nuova, è a posto, di Ladia, stava cercando una macchinetta per spostarsi. Gli ho detto di farla venire se le piace, è un 606 nuova, c'è anche l'aria condizionata, la guida, le elettrici, tutto va, tutto, è tornata nuova, perfetta, nuova, tutto nuovo, le avevo messo spattane, gomme, ho avuto a fatta le verniciate, no, non qua, fatti nel kiwi, a far numero, via, via, via, via, via. Coraggio che siamo anni, basta e avanti, inizia il 2018 il vetto, o 2009, turbo dice, basta e avanza. Va bene, però bene, andremo, è 8 meno 10, ehi, quasi 8 meno 10 sono, adesso porto il piano e poi andiamo a mangiare, e la via è finita, va. Ok, grazie delle due chiacchiere, grazie di tutto, fatti sentire. E ci sia Sassari, che ha ragione a fare commissione, chiamami, tanto io sono sempre libero, di mattina, di sera, a gambe di Biazzi. Qualche mattina, anche una domenica mattina, ci mettiamo d'accordo. E vengo su, dai, e ci prendiamo un caffè da qualche parte, anche a chilometro, dove vuoi tu. Sì, se no farò io, usciamo la gatta che c'è molto, c'è un cadavere. Domani saluti a Rossana, da poco l'ho vista a Sassari, che lei si sposta qua al lavoro, e mi ha detto che ancora stava lavorando, non so se ha terminato. No, sta lavorando, sta... Guarda che non so come termine, lui sono un po' di tempo mi senza vederlo. Per caso ogni tanto qualche volta ci vedevamo, ci siamo visti così alle feste, in piazza così, e sino non ho avuto pure i fiumi, e sempre in Travagliene, sempre in Travagliene, e sempre in Travagliene la domenica. Sì, ma ho detto Rossana che era lì al villaggio, capito? Lì al villaggio, però mi pare che terminasse, forse ancora non ha terminato, forse termina il 30 di ottobre, però ci avevano lavori anche extra da fare e quindi sicuramente lavorerà anche l'inverno, non lo so, vabbè, comunque già la gattemo. Ehi, Afra, chiama perché non so se tu sei disponibile, capito? Quindi non è che farò uscire a build, tu mi chiami, se mi sciogo a casa a fare a dini, scendo verso le 10:30 così facciamo un giretto, capito? Ci beviamo una cosetta e poi me ne salgo, non c'è bisogno di altro turno. Va bene, dai, rimaniamo d'accordo così allora. Ciao Fra, grazie delle due chiacchiere, buon fine serata, buon tutto e ci aggiorniamo, ok? Sì, va bene, dai. Ciao Fra, buon proseguo di serata e buona passeggiata col cane. Ci sentiamo. Ciao. Ciao Fra, ti indimmo.